bene o male. Cioè, mi senti peggio così e praticamente meglio così. Così mi senti meglio. Mi stai facendo preoccupare, Carlo. Cioè, sto provando un amplificatore professionale, non sto provando uno Speedy o un W131. Quindi, cioè, la differenza ci deve essere, anche perché c'è in città, quindi immaginiamoci fuori. La radio com'è invece? Buona? È rimasta la mia? Va bene, va bene. Sì, c'avevo troppo ingresso, non me ne ero accorto. Va bene così, dai. Ok, dai, riprendete, Natalino, riprendi il questo. Riprendomi, che me ne sto passando in quel RT e vi saluto tutti, da che devo fare cosa qua, c'ho il saldatore in mano. Claudio, comunque se ti va bene, io sono lunedì, sono libero tutto il giorno, per cui magari posso tenere la radio accesa, se mi fai chiamare la mattina dopo le 10, e poi di pomeriggio, da dopo pranzo, tengo la radio accesa, se tu hai tempo ci troviamo e così me la dai, me la consegni e ti do il problema è che io non ho il numero di telefono tuo, Carlo, capito, bisogna anche recuperare il numero di telefono. Vabbè, dai, io ti chiamo, faccio mezzogiorno, poi vediamo un pochino, ok? Dai, quel Rix anche per me che sto facendo cosa, più tardi se coincide, ciao a tutti. Va bene, non c'è problema, se no te lo aspettiamo per radio, al limite, basta che tu mi dica un momento, perché c'ho libero domani e lunedì, no, domani ho un impegno, purtroppo non so nemmeno a che ora arrivo a andare lì, quindi dovrei essere a casa. Vabbè, d'accordo, facciamo così allora, ci aggiorniamo via radio. A più tardi, signori, che devo mettere a posto qua, ciao a tutti. Ciao, alle prossime. Aspetta, rientro subito, 2 secondi. Non tanti da Sassari o Carlo, qui facciamo una prova a vedere, che mi interessa lontananza, perché era un po' fermo questo amplificatore, voglio vedere se sta funzionando bene. Ho capito, quindi vediamo un pochino, ce la fai a vedere lo smitter? Ok, quant'è adesso il segnale? Guarda così, se si è abbassato il segnale, ok, allora già funziona, quindi così sono quelle tacchette piccole e così con le tacchette grandi, sale? Vabbè, sì, in movimento, bisogna che facciamo la prova quando ti firmi all'aeroporto, ok, la mia radio, già va bene, ok, va bene, ti chiamo tra quanto? 10 minuti, un quarto d'ora? Vabbè, d'accordo, ma sono qua comunque. Sono rientrato. E ha voglia che ti ascolta. Ti ascolto benissimo. Segnale 9, radio 5. Beh, capisco, sono rimasto a casa tre giorni per esattezza, compreso oggi. Mal di gola, forte, eccetera, eccetera. Giubilato un freddo, giubilato. Vabbè, adesso già, a forza di cosa, di spirito, mi sto riprendendo piano piano. Sono giornate fredde di cosa sono, di merda, non parlare in nessun posto, se vai, esci, sudi, appena immediatamente ti frega. Il discorso è quello lì. Oh, yeah. Aspetta, stavo questo microfono, se no mi trovo su interno. Ho visto l'antenna ieri su eBay, bella mia, 3 quarti d'onda, 120 euro, 3 quarti d'onda e se non mi ricordo male sono 4, c'ha 4 radiali da 4-5 metri, una cosa del genere, mi sembra aver capito. Quella è bella da piazzare a casa tua, mia. È un siluro con l'antenna. carrozzeria, poi c'è 68 euro la via 27 L. Su eBay. L'ho vista ieri. Nella... non mi ricordo se o l'M o Sirio, non mi ricordo bene adesso, la verità. Vediamo, lo vediamo assieme, andiamo su eBay e la vediamo subito. È una tela veramente bella a me. Cioè, radiali lunghi, cazzo. Hai già detto, a parte lo stilo, che è una tre quarti d'onda, è bella, bella, bella veramente come antenna. Quella quando la piazzi, sei tranquillo che ci vedono i radiali dalla, dal piano delle, della strada. Aspetta che attacco Gigetto a vedere se riesco a pilotarlo con questa Gigetto, aspetta un attimo. Devo diminuire il watt, se no cazzo incendio tutto, aspetta un attimo. Ok, adesso il watt sono al minimo, aspetta un attimo che aggancio Gigetto, vediamo se riesco a pilotarlo. Vabbè Carlo, che fine hai fatto? Carlo. Dovrebbe essere arrivato quasi al vero. Aspetta, hai tutto quello che è stato, eh? Scusa, no? Aspetta. Stavo facendo una prova. Dove cazzo sono i cosi? Questo riceve anche 50 watt, però lo sto facendo sono problemi. Ciao Carlo, ciao. Un abbraccio, ci sentiamo stasera al limite, vai. Va bene, vai Antonio. Ehi, ciao Carlo, ci sentiamo stasera. Buon lavoro, buon quereti, buon tutto. Quindi Antonio aumenta da te, va bene, funziona, vai. E a voglia, io ho fatto un diretto su eBay, il 550p, 12 volt, 559 euro, ragazzi, ma questi sono impazziti, sono. Il 550 costava, ai primi del furo, 200 euro, qualcosa, cioè, 200.000 euro, mi sembra 200.000, cosa, sembra che 559 euro a transistor, 550. Yes, costa poco già. Un leasing ci vuole. No, sai, così, purtroppo così, c'è niente da fare, no? Ci fate rimbagliare tutti, ci fate rimbagliare. L'unica cosa bella è quell'antenna che ho visto io, con quei radiali lunghi, lunghi, lunghi, cazzo, se 3 quarti d'onda. Adesso vediamo un po', dopo Natale me la ordino, tanto costa 120 euro. E me la piazza a posto della mantova, me la piazza, vediamo come esce. Se non si spezza prima, primo vento. Ehi, Antonio, stai attento, il venti lì, già lo sai, è un casino. Vabbè, no, io qua, le antenne non sono molto alte, sto benissimo. A terra, già funziona lo stesso. E lì tu sei in campagna, quindi siete più sempre tranquillo. E io che sono qui in alto, io ho piglio pieno, in maestrale. Sì, io non sono basso, sono più alto. Già lo sai, però diciamo che le antenne sono basse perché va bene così, l'altezza c'è, quindi già va bene. Ah beh, quello sì. Ascolta, molto si sente la ventola? No, la verità no. Era lubrificata anche. Già va bene, ottimo per la truppa. Ah beh, quello sì. Già va bene, già va bene. E se cambio radio, eh? Vediamo un po' con l'altra come va. No, va con l'altra, però già va bene. Vabbè, com'è questa? Questo è il 14. C'è buona voglia. Radio chiara, perfetta. Sempre la mia, no? Già va bene. Vabbè, questo sto andando per una... e 20 watt, da. Sì, è già sempre la tua voglia. Ci mancherebbe. E almeno, abbiamo messo in funzione veramente l'amplificatore, perché tenere la ventola armadio mi pare una pazzia. Sei in campagna, puoi anche usare il amplificatore, non è che devi, non sei in condominio, quindi forse stato io in campagna come te, avevo usato 1200-1300 come minimo tutti i giorni. Il problema è la questione del contattore, che la questione è diversa, il minimo tamoglio di mettere fuori il cazzapulire tutti i giorni, il cazzo giardino. Lo so, no, questo è un buon amplificatore, funziona molto bene. Già ne ha di potenza, però ti ripeto, sopra un po' di giorni lo tengo così acceso a poca potenza, poi vediamo, poi lo facciamo andare ancora di più. Ce ne sono amplificatori da piazzare, basta buscare qualche camionista che, dato per dire, non ne vuole più sapere del baracchino, delineare per dire 750 come si faceva una volta, quello lì, ma sono di quelli lineari che ho io, ti fai due fori per la modifica, per metterci due boccole e stai andando in qualsiasi lineare che vuoi, anche in quello da 1200, perché te lo pilota tranquillamente dal sommatore che c'è dentro, quello del BV2002, capito? A transistor. Quindi puoi pilotare come ti pare, ti piace, quando e come, il discorso è quello lì. Io l'ho preso per quello, questo transistor, non per altro. Nel caso mi capita qualche lineare grosso da riparare, almeno non devo stare a sventiare, a cercare un alimentatore 24 volt, spendere un sacco di soldi. Adesso devo mettere due poco motore dietro, così posso alimentare i due lineari contemporaneamente. Questo già è già abbastanza grosso, non è che devo portare a mettere la velocità. No, questo HF non è 0,30 lineare, non è un linearetto così. Infatti sono attaccato sul 430 per vedere se stava andando bene. Guarda che PV 2002 monta i finali per, che vanno anche in VHF, già lo sai anche tu, sì. Non sono solo 0,30 per la, cioè per la 27, vanno anche in VHF addirittura, sulla banda larga. Quindi volendo puoi tranquillamente pilotare quello che vuoi con questo lineare qua. Sì, sì, ma pare ce l'ho io, ho stato solido. Io ce l'ho stato solido. Funziona molto bene, però avete 4 corsi, capito? Sempre HF, 0,30. Ma fa un casino Gesù Cristo, cazzo, c'ha 3 ventole sopra, minchia. È un bel grande, devi fare un banchetto dove lo metti. Invece questo è valvolare ed è a fianco all'HF, quindi va molto meglio. Ah, quello sì, già c'è il suo lineare comunque in vendita, ho visto. L'altra volta c'era un trasmettitore FM, c'era Broadcast, ne voleva 300 euro, ne voleva. Aiuto, lascia perdere. Neanche ci ho fatto caso. Poi ce ne ho visto uno ieri, bellino, di quelli cinesi, 5 watt, tondi tondi, 50 euro. Uno di quelli va, per giocarmi va bene. Basta che mi faccia tutta la città e i paesi vicino, come si faceva una volta, e mi diverto. E già te l'ha fatto la città, anche i paesi vicino ti fa, non c'è un problema, già va bene. Allora, con l'uscita del telefonino, direttamente all'ingresso del trasmettitore, in realtà con YouTube e sta andando. È come avere una radio in miniatura in casa tua. Quello uguale, intanto non paghi nulla, non devi stare con le pennette, col mixer e roba del genere, aggancia direttamente l'uscita come si fa col telefonino, con le cuffie e sta andando. E già dove sta andando, non voglio averla alla grande. Non ci sono più quelli, cioè trasmettitori grandi quanto un coso, cazzo, no, un mobile, come si faceva una volta. Quindi adesso li fanno piccolini, stereo addirittura, 5 watt, 100 watt, come piace a te, costano anche una fesseria, cinesi, anche lineari ti fanno addirittura, adesso, una cazzata, prima ci voleva quale roba, adesso invece tutto in miniatura, fanno tutto cinesi adesso. Figurati, meglio, va bene. Gappa, dammi 5 minuti a parlare, vado a bere, c'ho una 7, sono rinchiuso qua da poco fa, stavo mettendo a posto, finalmente ho fatto un po' di spazio e ordine, e va bene. E io, fai pure, tanto io mi sto sistemando l'alimentatore, quello grande, mi ho messo il fusibile, come si chiama poco fa, adesso dopo vediamo se funziona i ponti di Iuri. C'ho anche il sistema ambientato alimentatore che sto costruendo, così sono a posto. Fai pure, non c'è problema, già sono all'ascolto. Tanto stasera devo andare un attimo da Bricome, comprarmi il palo per l'antenna VHF, così me la installo. Se ce la faccio, appena cambia il tempo, faccio due fori, già ho pigliato la punta stamattina. Anda bene, fai pure, già non c'è problema, adesso sono qua l'ascolto, tanto sto facendo cosa. Gappa. Antone, un pugno, ci sei? Attenzione Antonella, un pugno, ci sei? No, noi dobbiamo avere una coppia, no, qua salta tutto. Pompunius, attenzione Pompunio, ci sei? Cosa c'è? Volevo. Dimmi caro, dimmi. Asco, non è che tu ritrovi qualche lineare rotto, che mi servono un condensatore variabile, mi serve. dovevi cantare dallo scorso, amore mio. C'avevo quel BV 2001, l'MH3, il primo che c'avevo, e c'ha tutti i pezzi completi, c'erano condensatori variabili, condensatori normali, tutto c'aveva, tranne che le valvole che avevo tolte io. Capito? L'altro lineare è uguale, quello di Benito ce l'ho da Fabio Master, e bisogna che uno di questi giorni vado e li busso la porta di domenica e me lo ritiro da lo a coso, che poi ce lo sistema lui, ha detto. Perché io, cioè, non posso andare a piedi a Pedanieta a prendere un lineare che pesa quasi 20 kg così, capito? Già lo so. No, mi serviva solo il condensatore variabile, quelli che sono plate e load, perché mi devo costruire un'antenna e ci vuole quel condensatore così. Ah, ho capito. Non ti posso dire. Mi sembra non ne ho proprio manco di quelli io. Chiedo se c'era qualche amico mio, qualcosa con l'estatore variabile, e non c'è problema, cosa vuol dire che io? Ehi, cerca l'Antonè, che devo fare un'antenna, devo fare, che serve per ascoltare e serve per la sintonia, per sintonizzare l'antenna serve. Sì, per accordare l'antenna, più che altro, risuonare. E cappa. Uno di quelle antenne tonde mie. Sì, ho capito quella che stai dicendo, quella che mettono su Facebook, autocostruita, che rimane tonda, basta uno di quegli aggeggi e prendi, accordi e ascolti, e ti fa l'antenna per il ricevitore, tipo l'antenna Marconi, ne ho capito. Quella lì devo costruire, mi serve il condensatore variabile, però se non vai lì se non fai nulla. Già lo so, ma sarebbe anche un coso, un TM1000 vecchio, d'altronde, monta la stessa identica cosa, c'è condensatore variabile il TM1000, se no ti posso dire un qualche lineare. Due ce l'hanno, solo che non so se non penso che te ne dia di quei pezzi. E chi? Gianni Capridue. Vabbè. Questo lo tieni così. E vuoi che te dica? A me mi serve uno di quelli. A proposito, devo buscarmi un alimentatore. Come la vita, caro di Tarot. Però lo voglio più grande di questo. Questo qui è 30 ampere. E mi serve più grande di quello lì. E quanto vuoi? 50 lo vuoi. Non sai dove li vendono per caso quegli alimentatori, Antonello? Perché ne voglio mettere uno solo per questo qui e l'altro per alimentare le altre cose. A città mercato ci sono a 50 ampere, ci sono, costano mi sembra intorno ai 30 euro, massimo mi sembra 40, una cosa del genere. Io ne ho uno da 20 e uno da 30, hai capito? Ma affiancato a cosa? A città mercato c'è quel negozio dei cinesi, basta che vai lì, lo trovi subito, lo trovi. Aspetta un attimo, Antonio. Eia. Alimentatori stai dicendo, Antonio? Quelli squishing dei cinesi, perché tu cosa hai alimentato le vuoi? Di quelli grossi di una volta? Ah, lo voglio squishing, però non di quelli dei cinesi, che non, sì, sono rumorosi quelli, mamma mia. cazzi non c'è nessuno in giro a me. Se voi avete dato le squeezing di quelli di una volta che vendevano, che si incendiavano, lascia perdere, che è molto meglio. Ci sono in vendita su eBay, ma la capelli a fottendini. Ti compri uno di quelli, ti prendi una, come ti posso dire, una scatola di metallo, c'è un infilo dentro, gli metti silicone e stacchi la parte di sopra dove è inserita la ventola, e la ventola ce la metti ben piazzata, hai capito? In modo che non faccia rumore, con un gommino. Aspetta un attimo il telefono, 2 minuti. Ci aggiorniamo, Anto, stai bene, salutami a...